Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e bentornati. Oggi sono sola, ma Deborah tornerà domani. Ovviamente non mancheranno oggi i temi di denari. Poi nella seconda parte del programma avremo qui in studio un grande ospite. Vi do qualche indizietto. È nato a Milano. Beh, a Milano sono nati tanti. Ha fatto della sua passione il suo lavoro. Beh, anche questi, ci sono delle persone fortunate che sono riuscite proprio a trasformare la passione in lavoro. È in qualche modo legato a Expo, all'albero della vita. Allora, 800 24 00 24, se avete capito di chi sto parlando. Comunque una cosa è certa: dalle 11 parleremo di musica, anche di musica, ma non solo, del suo effetto terapeutico, di come venga utilizzata anche per farci stare bene, ed è una cosa che noi conosciamo direttamente. Ma poi parleremo anche di spesa, di condominio, di prodotti di stagione, di pancia, di ricette, insomma iniziamo. Allora, il primo approfondimento della nostra rassegna stampa riguarda il nostro carrello della spesa, o meglio la nostra busta della spesa. Sentite questo dato: nel 2016 almeno 4 italiani su 10 hanno fatto la spesa dal contadino nei cosiddetti mercati degli agricoltori, con un aumento record del 55% negli ultimi 5 anni. Il dato ci arriva dall'indagine Rivoluzione dei mercati contadini in Italia, che è realizzata da IPR Marketing per conto della Coldiretti, che da anni, lo sapete bene, promuove la distribuzione diretta con l'iniziativa Campagna Amica. E in questi giorni il tema è fortemente tornato alla ribalta della cronaca a seguito proprio dello sfratto che proprio gli agricoltori di Campagna Amica hanno ricevuto dall'area del Circo Massimo subito dopo la chiusura disposta dal comune. Pensate che contro questa chiusura è partita una petizione che ha già 50.000 firme. Intanto saluto subito Carmelo Troccoli, che è direttore della Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno ai radioaspettatori. Allora, intanto i vostri dati raccontano che mai dal dopoguerra ad oggi così tanti italiani hanno acquistato direttamente dagli agricoltori. L'83% degli italiani considera l'acquisto di prodotti alimentari direttamente nei mercati degli agricoltori sicuro. Il 23% in più rispetto ai supermercati e il 15% rispetto al dettaglio tradizionale. Belli questi dati. Dottore, ed è caduto. Si è spaventato dai dati. Beh, comunque, forse anche voi vi rivolgete proprio al mercato del contadino, proprio spinti, oltre che dal desiderio di cercare delle offerte, proprio per approfittare dei prodotti di stagione. Tra l'altro volevo segnalarvi proprio che un'altra bella iniziativa, gli esperti dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli hanno realizzato un calendario proprio con l'obiettivo di favorire un'alimentazione sana che parte da una consapevolezza della stagionalità dei prodotti, perché consumare frutta, verdura e pesce, perché nel calendario ci sono anche delle indicazioni sul tipo di pesce da consumare a seconda della stagione, gustare cibi insomma quando sono più genuini, con la maggiore concentrazione di sostanze protettive, perché proprio di stagione, è sicuramente fa molto bene non solamente al portafoglio ma anche alla salute. Quindi andate anche sul nostro sito, sulla nostra pagina, potete trovare il link dove potete poi scaricare questo calendario, che tra l'altro è molto bello. L'abbiamo guardato con attenzione insieme a Laura, ci sono delle immagini carine che piaceranno anche ai vostri bambini. Ho recuperato nel frattempo Troccoli. Buongiorno. Sì, ci sono. Due dati e lei è svenuto, invece sono bei dati quelli che abbiamo sottolineato. No. assolutamente, sono dei dati importantissimi, dei dati che noi riscontriamo poi ogni volta nei nostri mercati, perché aumenta sempre di più il numero di consumatori che vengono e scelgono i mercati di Campagna Amica, perché trovano prodotti freschi, prodotti del territorio, prodotti di origine certa, perché i nostri agricoltori, quelli che vendono nei banchi di Campagna Amica, si sottopongono a un disciplinare molto ferro, ad un sistema di controlli molto importante. Trovano soprattutto specialità del territorio, spesso anche specialità che abbiamo salvato dal rischio di estinzione, e questo dà ai nostri consumatori l'opportunità di portare sulle proprie tavole quella che è la cultura enogastronomica dei propri territori. Questo è un ritorno ad una spesa consapevole che stiamo verificando su tutto il territorio nazionale, di cui ne siamo veramente soddisfatti. Ma Troccoli, per quanto riguarda il prezzo, si risparmia o si spende più o meno la stessa cifra che al supermercato oppure al mercato rionale? Guardi, io sulla questione del prezzo noi ci teniamo tantissimo e ci lavoriamo molto. È evidente che ci sono delle tipologie di prodotti, prima le facevo un esempio, no? Prodotti che abbiamo salvato dal rischio di estinzione, prodotti molto particolari che... Me ne dica qualcuno. Nemmeno si trova, per esempio, io le dico, una pasta fatta con un grano antico macinato a pietra, trafilata a mano, così può avere un prezzo che magari è superiore a quello del supermercato, certo. Ma magari al supermercato non si trova nemmeno. Io però ho dei dati rispetto a dei prodotti, le dico, sul mercato di Roma, per esempio, questo è un periodo in cui ci sono i carciofi nei nostri mercati. A Roma mangiate le mammole, vero? Quelle senza spine. Brava. In questo periodo noi nei nostri mercati si trovano ad un prezzo medio di 0,70 e il prezzo medio sul mercato di Roma è al di sopra dell'euro. Un altro prodotto, per esempio, tipico qui a Roma, le puntarelle. Buonissime. Che da noi si acquistano intorno ad 1,50 euro, il prezzo medio a Roma è al di sopra dei 2 euro. Quindi noi facciamo... Sentami, scusi, attenzione. Le faccio una domanda che non ha, sì, proprio sulle puntarelle. C'è un trucco per farle arricciare, le puntarelle, perché a Roma si mangiano così belle ricce, si mettono nel ghiaccio, è vero? Assolutamente sì, e questo è anche un altro aspetto importante dei nostri mercati, il rapporto umano che si crea tra il consumatore e il nostro agricoltore, che spesso dà questi consigli la proprio ricetta al consumatore. Sì. Allora, intanto Troccoli, voglio leggerli i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, sì, perché la nostra comunità è molto attiva. Da anni acquisti i prodotti dai contadini, mai al supermercato, anche se i prezzi sono un pochino più alti, ma la quantità si paga. Molti ascoltatori mi stanno mandando messaggi via WhatsApp al 349-238-6666, teniamoci come sempre in contatto, e la parola che ricorre è proprio qualità. Quindi c'è questa consapevolezza da parte del consumatore di acquistare dei prodotti che arrivano dal territorio, sono a chilometro zero e sono prodotti buoni. Dottor Troccoli. Sono prodotti buoni, sono prodotti di altissima qualità, sono prodotti che noi e i nostri agricoltori assicuriamo, per esempio, che sono completamente liberi da OGM, e questo, per esempio, è qualcosa di molto importante per i nostri consumatori e lo sottolineano in continuazione. La possibilità di fare poi la spesa settimanalmente, di acquistare prodotto fresco, prodotto che ha una durata maggiore e quindi ci dà la possibilità anche di acquistare le dosi dovute per il consumo di una settimana, fa anche in modo che venga sprecato meno cibo. Ecco, questi sono tutti quanti elementi che messi insieme fanno la spesa presso i mercati di Campagna Amica e i mercati dei contadini una spesa conveniente. Allora Troccoli, passiamo però adesso dal punto di vista del consumatore a quello del produttore, perché a cuore denari ci piace anche e soprattutto soprattutto occuparci di lavoro. Certo. È un tema che a Deborah sta molto a cuore e a tutti noi, perché l'agricoltura, lo sappiamo, è un settore di fondamentale importanza per l'economia italiana, ma si è anche spesso evidenziato come oggi convertirsi a questa vita sia una scelta, diciamo, un po' complessa, perché si lavora 360 giorni l'anno, si fanno tantissimi sacrifici e trarne un reddito è davvero un'impresa ardua. Che caratteristiche ha l'impresa agricola del 2017? Possiamo regalare ai nostri ascoltatori un'istantanea per invogliarli a frequentare anche sempre di più i mercati a chilometro zero, apprezzando chi fa questo lavoro, e anche per i più determinati, perché no, magari per decidere di intraprenderlo? Certo. Innanzitutto diciamo che, sebbene è un lavoro difficile, sta aumentando sempre di più, per esempio, il numero di giovani che decidono di investire in campagna, in tutte le aree del paese, soprattutto nel sud del nostro, sì, del nostro paese. Però le voglio dare delle caratteristiche di quella che è l'impresa agricola del 2017. È sicuramente un'impresa aperta, non è più un'impresa chiusa, è un'impresa che ospita i consumatori all'interno della propria impresa, dove si possono vedere, si può entrare a diretto contatto, per esempio, con gli animali, si può andare in azienda e raccogliersi direttamente i frutti dagli alberi, partecipare con il produttore. Sicuramente un'azienda in cui il consumatore ha un ruolo importante, è un protagonista insieme al produttore del prodotto finale. Io le posso assicurare, interloquendo spesso con i nostri agricoltori, che spesso è anche il consiglio del consumatore che fa in modo che il nostro produttore aumenti sempre di più la qualità del prodotto. L'interazione tra il consumatore e il produttore, anche all'interno del processo produttivo, è l'elemento essenziale dell'impresa agricola di oggi e del futuro, ed è su questo che la Fondazione Campagna Amica, insieme a Coldiretti, che promuove tutto questo, sta investendo tantissimo. Allora, grazie a Carmelo Troccoli per essere stato con noi. Torneremo sicuramente su questo tema, perché insieme a Deborah insistiamo molto, invitiamo gli ascoltatori a consumare prodotti di stagione, perché la stagionalità premia la salute e premia anche il portafoglio. Troccoli, grazie e buona giornata. Grazie a voi, vi aspettiamo nei nostri mercati di Campagna Amica. Ma grazie. Volentieri. Adesso noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo di nuovo insieme. Io vi aspetto. Cuore e denari. Eccomi qua, sono tornata. 800 24 00 24 per stare in contatto con noi, per raccontarci un po' anche della vostra giornata, per intervenire in diretta, per porre le vostre domande ai nostri esperti, per commentare le nostre notizie. 349 238 6666 messaggi e WhatsApp. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa con un'altra notizia di denari. Purtroppo non si tratta proprio di una buona notizia, perché andiamo a commentare un dato che riguarda le situazioni di morosità in condominio, un dato purtroppo in netto aumento, quello degli italiani che non riescono a essere in regola con le spese condominiali. Nel 2016 la crescita sarebbe addirittura del 25%. Allora, cerchiamo di capire che cosa succede con Alberto Zanni, presidente di Confabitare, associazione di proprietari immobiliari. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma grazie per essere con noi. Insomma, Zanni, sentiamo parlare di ripresa, però questo dato non ci fa proprio pensare alla fine della crisi economica, perché i ritardi nei versamenti sono sempre più frequenti. Sì, ci riassume un po' la situazione? Beh, analizzando questi dati uno può pensare che si parla di tutto fuorché di ripresa, perché certo. Questi dati dicono chiaramente che in Italia, e direi un po' su tutto il territorio nazionale, poi chiaramente variano le percentuali, sono in aumento le morosità in condominio, cioè le rate non pagate all'amministratore per le spese condominiali. Sì. Come diceva lei nella premessa, abbiamo una media nazionale del 25%, naturalmente ci sono delle punte come a Bologna, dove c'è la maglia nera appunto di questa criticità. Insomma, Bologna sono morosi, che non sono i morosi quelli che piacciono. No, non i morosi fidanzati. Non i morosi fidanzati. Esatto. Ecco, ci saranno anche i morosi a Bologna, ma insomma, quegli altri. Quindi allora, maglia nera a Bologna. È un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale, l'incremento. Ovviamente maggiormente nelle città capoluogo di provincia, nelle città più grosse ovviamente, dove c'è la massima concentrazione, la maggior concentrazione di abitanti e soprattutto anche di persone che vivono in condominio. Non dimentichiamo che in Italia l'85% dei proprietari, cioè di coloro che vivono all'interno di un condominio. Certo. E ovviamente nelle grandi città c'è massima concentrazione, nelle grandi città sappiamo che vivono un italiano su sei, quindi diciamo c'è una grande partecipazione. E ovviamente il centro-nord è quello più diciamo interessato, qui naturalmente sono interessate anche altre città della Sicilia, della Calabria eccetera, ma il centro-nord è più interessato a questo fenomeno. Allora, pochi minuti, ma il tempo per intervenire, magari per raccontarci la vostra testimonianza, per dirci se nel vostro condominio ci sono situazioni di questo tipo e anche per raccontarci le cause, magari delle difficoltà a pagare, come sono state gestite dall'assemblea condominiale e se vi siete trovati voi stessi nell'impossibilità di pagare, se volete raccontarci la vostra esperienza o chiedere un consiglio al nostro esperto, noi siamo qua. Le cause di questi ritardi, da quello che risulta a voi, dottor Zanni, quali sono? È sempre la crisi? La causa principale è sicuramente la crisi economica. Ci sono tante famiglie purtroppo che o hanno perso il lavoro o sono andate in cassa integrazione, quindi calano notevolmente le entrate nelle casse della famiglia e quindi di conseguenza c'è meno disponibilità economica appunto per affrontare le spese. Ho una domanda di Andrea da Modena, mi scusi l'ho interrotta. Sì. Come condomino posso richiedere all'amministratore l'estratto conto per vedere se c'è qualche moroso? Certamente, l'amministratore deve comunicare ai condomini quella che è la situazione contabile del condominio, quindi il condomino lo può sapere tranquillamente. Altri ascoltatori ci scrivono lamentando che spesso la morosità di alcuni condomini va a cadere inevitabilmente sulle spalle degli altri che si trovano a pagare di più o magari pagano anche con grande fatica. Insomma, c'è chi vede anche un po' di malafede. Beh, diciamo che in alcuni casi c'è stata anche malafede perché, come stavo dicendo prima, nelle cause di questi ritardi sicuramente c'è la crisi economica che è al primo posto nelle cause di questi ritardi perché, come dicevamo, chi ha perso i posti di lavoro, chi è in cassa integrazione. C'è anche un po' chi fa il furbetto, cioè sapendo di una situazione un po' così, dove magari non vieni direttamente coinvolto, magari c'è chi rallenta o sospende il pagamento delle rate. Poi abbiamo anche la situazione di chi è in affitto, perché ricordiamo che la rata condominiale non spetta solo al proprietario, ma spetta ovviamente anche agli affittuari che sono in affitto per quella che è la loro competenza, che magari andando in difficoltà economica, prima di smettere di pagare l'affitto, non pagano le rate condominiali, perché sappiamo benissimo che se non paghi l'affitto oltre 2 mensilità incorri nello sfratto per morosità, mentre diciamo la rata condominiale può cercare di avere un tempo più lungo. Poi, come dicevo prima, in tutto questo fenomeno c'è mezzo anche chi fa il furbetto e prova diciamo a non pagare. Però dall'entrata in vigore della riforma del condominio nel giugno del 2013 qualcosa è cambiato, nel senso che l'amministratore, se prima poteva chiudere un occhio, magari anche d'accordo con l'assemblea eccetera, adesso è obbligato entro 6 mesi a mettere un decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi, quindi diciamo in qualche modo può intervenire per evitare, come dicevamo prima, che siano sempre i virtuosi, cioè i migliori, cioè quelli che pagano regolarmente, a doversi far carico sempre di chi non paga. Quindi con queste nuove norme il fenomeno dei furbetti dovrebbe essere limitato. Dovrebbe essere limitato, non dico che sparisse, ma sicuramente limitato. Certo, ma che consigli potrebbe dare dottor Zanni al nostro ascoltatore che in questo momento si ritrova descritto un po' in questa situazione, fa fatica a pagare le spese condominiali e quindi non le paga, ma non vorrebbe insomma vedersi un decreto ingiuntivo? Certo, Allora, la cosa peggiore che io sconsiglio sempre è quella di sparire, non farsi trovare, non rispondere al telefono, non rispondere alle lettere dell'amministratore, perché è sempre la cosa peggiore il silenzio. Sì. Quello che io posso consigliare è questo: qualora ci fosse la possibilità di versare all'amministratore, cioè quindi al condominio, qualche piccolo acconto per far vedere anche, come dire, una buona volontà, una certa disponibilità e volontà da parte del condomino a saldare i propri debiti col condominio. Comunque, se non ci fosse questa disponibilità, mettersi d'accordo con l'amministratore e concordare un piano di rientro, dire guarda, perché di solito le rate condominiali vengono spalmate nell'arco dell'anno amministrativo del condominio. Dire sì. Guarda, io queste 3-4 rate non riesco a pagarle in questi pochi mesi, perché poi sappiamo che nei condomini addirittura dove c'è il riscaldamento centralizzato sono addirittura concentrati in pochi mesi, cioè quelli invernali dove magari ci sono maggiori spese, e mettersi d'accordo con un piano di rientro, dire io magari ci metterò più tempo, però provo e mi impegno in qualche modo a rientrare. Però ecco, sempre quello di parlare, mai quello di sparire, perché a quel punto uno può pensare che ci sia della malafede sotto. Dottor Zanni, anche ancora un'altra indicazione, un consiglio di prevenzione, prevenire meglio che curare, anche per i denari? Beh, sicuramente parliamo dei fornitori, perché si sa che la legge di riforma del condominio dice che un fornitore che è creditore di un condominio deve rivalersi innanzitutto sui morosi e poi ovviamente sì, solo successivamente su quelli che sono i condomini virtuosi. E qui sappiamo che sempre non è così, perché alcuni giudici concedono ancora la possibilità di pignorare il conto corrente condominiale, oppure alcuni fornitori, diciamo così, forti, tra virgolette, tipo chi fornisce energia, gas, acqua al condominio, piuttosto che la manutenzione dell'ascensore, possono in qualche modo anche ricattare, mi passi il termine, sì, tra virgolette, dicendo ah, se non mi pagate non vengo più a fare la manutenzione dell'ascensore, ve lo blocco, eccetera, e via, eccetera. In questo ecco, sì. Anche in questo caso, per evitare di come dire, che il fornitore vada a pignorare il conto corrente o si rifaccia sui condomini virtuosi, anche qui vedere se il condominio riesce a pagare qualche piccolo conto al fornitore in modo da, come dire, farlo star buono. Certo, mettersi un po' d'accordo. È sempre la cosa migliore alla fine. Grazie al dottor Zanni per essere stato con noi. Naturalmente su questo tema torneremo, perché è un tema molto complesso. Ci torneremo con più spazio e soprattutto con Deborah. Dottor Zanni, grazie. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito. Vi abbiamo annunciato un ospite e abbiamo chiesto ad alcuni di voi di indovinare dei nostri indizi, e allora lo facciamo lanciare da Sergio, dalla provincia di Varese, prima di andare al nostro GR. Sergio! Eccolo. Allora, mi faccio un bel lancio. Ok, a tutti voi presento una persona che ha come scopo della vita, penso, di seminare bellezza. Con me l'ha fatto benissimo, sì, è Roberto Cacciapaglia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Allora, mentre state ascoltando questo brano, nel vostro cervello e quindi anche nel mio si sono attivate le stesse aree che si accendono quando mangiamo qualcosa di buono o facciamo qualcosa di molto molto piacevole. Liberate l'immaginazione, sentiamo ancora un po', perché non può che farci bene. Allora, il mio piacere è doppio perché qui accanto a me in studio c'è l'autore di questo brano, il maestro Roberto Cacciapaglia, come prima del GR ci ha annunciato il nostro ascoltatore. Ciao Roberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e a quelli che ci stanno ascoltando. E volevo solo dirti una cosa, che mi ha emozionato la scelta di questo pezzo, perché è un pezzo, diciamo, che nessuno da molto tempo che non lo sentivo, no? Ma ti emoziona perché c'è una ragione anche? Il pezzo si chiama Dolcemente, Mente Dolce, e sono molto legato a questo pezzo, e poi è un periodo in cui mi ricorda Mente Radiosa, sempre parlando di un pezzo che avevo scritto per il concerto che avevo fatto con Rita Levi Montalcini. Vedi, ed era stato un momento molto la musica emozione, la musica è ricordo. Tu che la musica la scrivi e la interpreti, cosa provi quando la ascolti? Quando ascolti la tua musica, sai che tra l'altro i musicisti sono molto studiati dalla ricerca. Forse avete un cervello particolare o un cuore. Beh, se andassero insieme sarebbe interessante. Dovrebbero. Anche col corpo. Ci vogliono tutte e tre, secondo me. Ma quando ascolto la musica cerco di... la mia musica non... quando la suono e quando l'ascolto sono due momenti molto diversi. In tutti e due i casi però cerco di partire sempre dal silenzio, come tu sai, no? Perché penso che sia interessante lasciarsi attraversare dalle vibrazioni, e a volte la mente diventa un ostacolo, la mente giudica, la mente continuamente, parlo di una mente di questo mulinello, no? Sì. E c'è una parte di noi che invece è più interna, che è più ricettiva e più sensibile. Allora, se noi ci lasciamo toccare da quella parte, dalle vibrazioni, il loro risultato è più efficace. È una sorta di meditazione, metto tra virgolette. In qualche senso si può chiamare proprio perché così. Proprio o contemplazione. E ci ha ascoltato con attenzione Alberto Pellai, voi conoscete benissimo, medico, ricercatore, scrittore, psicoterapeuta. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno al maestro, buongiorno a tutti e a Deborah. Buongiorno. Deborah non c'è, ci ha lasciato, ma solo per oggi, torna domani, ed era molto dispiaciuta perché voleva godersi un po' questa puntata il maestro Cacciapaglia, naturalmente anche tu Alberto, sai che sei una passione di Deborah. Alberto, gli scienziati, dicevo al maestro Cacciapaglia che il cervello dei musicisti è molto studiato. Perché la domanda è: ma qual è l'effetto della musica sul nostro cervello? Come mai il nostro cervello rimane così impressionato e memorizza in modo direi così intenso nella propria memoria alcuni particolari come il suono e le canzoni, che lo sappiamo fanno anche da cornice sonora a tanti momenti importanti della nostra vita? Ma direi che il maestro Cacciapaglia un po' ha già dato proprio l'immagine di quello che fa la musica quando entra dentro di noi, cattura, uncina, si collega e si sintonizza proprio con la parte del nostro cervello che noi potremmo definire il cervello emotivo. Se noi ascoltiamo una poesia, le parole entrano nel cervello cognitivo, acquisiscono dei significati e poi ci emozionano. Se noi invece, e quindi vanno nella zona del cervello emotivo, che è una zona un po' più bassa, se noi invece ascoltiamo la musica, quella musica entra nel nostro cervello emotivo, attiva il nostro sentire, un mondo di emozioni, entra proprio in risonanza, non col nostro pensiero ma col nostro sentire, e da lì poi può anche costruire un mondo di significati, cioè andare al piano alto del cervello, ma fondamentalmente fa proprio il percorso dell'emozionalità, ci dà vibrazioni, ci dà emozioni, ci fa sentire, ecco, ed è per questo che la musica è proprio una, direi, uno di quelle variabili della vita che, se la mettiamo dentro alla nostra esistenza, ci fa vivere meglio. Sì, d'altronde noi ascoltiamo musica sin da quando siamo solo dei bebè, perché tra l'altro è molto interessante e mi commuove sempre pensare che i lattanti rispondano meglio alle melodie piuttosto che al linguaggio verbale, che proprio si rilassino ascoltando i suoni dolci come la voce della mamma, la voce del papà. Alberto ci raccontava che la musica è in grado di darci piacere, ed è per questo probabilmente che fa da sottofondo alla maggior parte della nostra giornata giornate della nostra vita, perché ci dà piacere, perché stimola i ricordi, perché ci fa condividere emozioni. Se siete d'accordo, se non lo siete affatto, 800 24 00 24, chiamateci al numero verde, mettetevi un po' in gioco anche voi. Ad esempio, sapreste usare la musica o un genere musicale, un brano, una canzone in particolare per fare un'istantanea del momento che state vivendo? Alberto, questo potrebbe essere una sorta di gioco test, perché la musica, come si dice, a volte racconta più di tante parole. E intanto che i nostri amici si attivano, volevo chiederti, Roberto, tu sei appena tornato dalla Russia. Sì, ho fatto due concerti bellissimi, uno a San Pietroburgo e l'altro a Mosca. Ecco, io sto leggendo i messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori, che hanno subito riconosciuto il tuo pezzo quando abbiamo aperto la nostra puntata, e c'è molto calore. Un ascoltatore che abbiamo avuto in diretta, che ha lanciato il tuo intervento, ha detto: un uomo che racconta la bellezza. Com'è il pubblico in Russia? Grazie. È così straordinario, bello come quello italiano? In un modo diverso. Io penso che si senta molto anche questo parlando con una persona del pubblico, dicevamo che in Russia c'è un gelo incredibile, perché eravamo noi a 20 gradi sotto zero, ma fuori Mosca, per esempio, hanno raggiunto 40 gradi sotto zero, quindi cioè, è freddo. Quando si dice che la musica scalda il cuore, vedi? E lui diceva proprio questo, però all'interno c'è un calore incredibile, no? Infatti è un pubblico veramente straordinariamente sensibile e anche molto caldo. Hanno anche una tradizione molto... La musica russa arriva in profondità, proprio forse per questa atmosfera gelida che pervade appunto il territorio. Un matematico partenopeo del Novecento scriveva che per tre cose vale la pena vivere: la matematica, la musica e l'amore. D'altronde, io molte storie d'amore sono nate sulle note di una canzone, credo un po' meno svolgendo un'equazione, ma magari qualcuno si è innamorato del proprio compagno di banco che gli spiegava un'operazione. Una cosa però, Roberto, è certa, che c'è uno stretto legame tra musica e matematica. La musica è il suono della matematica. Mi sono appuntata questa frase, che è di un allievo di Bach, perché queste due discipline, che sono apparentemente opposte, hanno in realtà molti aspetti in comune. E il primo, e qua parte il domandone, a studiarle fu un grande genio. Attenzione, perché voglio regalarvi il CD che Roberto Cacciapaglia mi ha portato autografato. Il primo a studiarle fu un genio che è vissuto tra il 570 a.C. e il 495. Fu matematico, taumaturgo, astronomo, scienziato, politico e fondatore a Crotone di una delle più importanti scuole di pensiero dell'umanità, che prese da lui stesso il suo nome e nel cui ambito si svilupparono tantissime conoscenze, in particolare quelle matematiche. Se volete dire il suo nome e volete portarvi a casa il CD autografato da Roberto Cacciapaglia, 800 24 00 24. Io non posso suggerire. No, tu non puoi suggerire assolutamente. Io già mi privo del CD. Invece volevo parlare con te del rapporto tra matematica e musica. Beh, un rapporto straordinario, anche perché i codici poi numerici sono da sempre i codici della musica. Pensiamo alla fuga, ai canoni, i rapporti delle note stesse, quelle che hai definito tu, i suoni armonici che si sviluppano proprio attraverso i numeri. Ma io li ho indagati da un punto di vista però strettamente compositivo, in un lavoro che si chiama Alphabet, che è un mio CD di qualche anno fa, dove proprio ho messo in relazione le lettere e i numeri, perché i numeri sono il codice proprio del tempo, no? Se pensi alla musica, il tempo è scandito dai numeri, no? 4 quarti, 8 quarti, battuta 89, eccetera, no? Quindi lo scorrere del tempo è scandito dal codice numerico. Le lettere sono lo spazio, da là l'alfabeto si espande, no? Quindi questo spazio-tempo è proprio il mondo, la dimensione della musica. Andare oltre lo spazio-tempo è quello il risultato che un musicista può ottenere se riesce a suonare e a raggiungere un certo livello di profondità, e questo viene diciamo questo istante che elude tutti i tempi, passato, presente, futuro. Questo quarto tempo è proprio viene percepito interiormente anche dal pubblico. pubblico. Quindi scusami, se io ti dessi una formula matematica, tu saresti in grado di tradurla in musica? Ma io non faccio traduttore, diciamo. Interpretarle in musica. Io ho una formula, perché devo parlare, voglio parlare di una formula che mi sta particolarmente a cuore, perché dobbiamo sempre legarci all'attualità. Avete letto che l'indice di massa corporea, gli studi dicono che è quella formulina che ci dice se siamo in forma o fuori forma. I ricercatori hanno scoperto che ereditiamo in una percentuale pari al 35-40% dei genitori, e quindi questa quota trasmessa aumenta nei bambini che sono decisamente sovrappeso. Allora, se volete saperne di più, restate con noi, perché magari anche in musica, ma dei consigli per ritornare nella formula giusta, che è quella del peso forma. Abbiamo sentito che sta aumentando la longevità, soprattutto tra le donne. Bella notizia. Vogliamo anche portare voi uomini a diventare longevi come noi, e quindi sicuramente lavorare sul peso è importante. Per questo nel corso della nostra puntata vi daremo dei consigli. Alberto, che cosa ti stupisce del maestro Cacciapaglia? Perché abbiamo detto che la musica è piacere, la musica è emozione, ma anche la musica è scoperta, è riscoperta. Ma direi che lui ci porta proprio in un mondo che per molti di noi è un altro mondo. Ci accorgiamo che, stando dentro al suo percorso musicale, è come se parte della frenesia, della compulsione, della convulsione in cui la quotidianità ci immerge, ecco, improvvisamente trovasse una sua zona di elaborazione e di risoluzione, che direi in parte è anche il motivo per cui usiamo terapeuticamente la musica nella nostra vita, così fortemente uncinati dagli impegni del quotidiano a spremere il cervello su un sacco di funzioni complesse, e poi entrare nella musica come la musica del maestro è un po' come entrare in una zona che è allo stesso tempo di conforto ma anche di reindividuazione di noi. Diventiamo non quello che la vita ci fa diventare, ma quelli che davvero vogliamo essere se ascoltiamo una musica che fa bene all'anima. Allora, per Roberto mi scrive un ascoltatore, e voglio farlo sentire naturalmente anche ad Alberto: la bellezza salverà il mondo e la musica ne stabilirà l'armonia. Questo ci scrive Ermanno per te, Roberto, ma abbiamo anche Carlo dalla provincia di Bologna. Grazie. Carlo, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Volevo solo raccontare un episodio più brevemente possibile. Io insegno pianoforte e tra le varie cose lavoro in uno spazio a Bologna che è una specie di centro gestito dal quartiere e aperto quindi anche ad altri soci di altre attività. Siccome da qualche tempo in questo centro si sono infiltrati dei ragazzi, maschi e femmine, che sono un po' di elementi di disturbo, da un po' di tempo quindi c'è del disagio, rumore, fumano dove non si può e così via, e tutti noi ci stavamo chiedendo come fare ad affrontarli. La settimana scorsa, mentre facevo lezione, sentivo che una di queste ragazze canticchiava una canzone. Allora sono uscito dalla stanza e l'ho chiesto di cantarla ancora perché volevo sentirla. Lei sulle prime era molto intimidita, allora dopo l'ho convinta a venire dentro la stanza del pianoforte, io suonavo, lei cantava, e avreste dovuto vedere questa ragazza e anche i suoi amici la trasformazione che hanno avuto, perché si è proprio avvertito un clima completamente diverso. Avvertivo che loro si sentivano apprezzati per la prima volta per qualcosa. E quindi mi ha colpito molto, perché credo, spero, di aver messo a nudo qualcosa che neanche loro conoscevano. Mi illudo forse, ma non lo so. No, secondo me, Carlo, a parte che questa è una storia bellissima, e Carlo, la ringrazio per averla raccontata qua a Cuore Denari, perché è una storia che tocca il cuore, che racconta anche il potere della musica, ma credo anche quello dell'attenzione nei confronti dei ragazzi, nei confronti delle persone che stanno vivendo un disagio, che a volte, Alberto Pellai ce lo spiegherà molto meglio, si chiudono proprio perché hanno paura e hanno bisogno di una mano che li aiuti a tirarsi fuori. Alberto. Credo che poi il racconto del nostro ascoltatore ci dà anche una chiave di accesso a nuovi modi di sostenere la crescita dei nostri figli, perché spesso noi siamo davvero molto, cioè abbiamo un sacco di pretese sulla loro crescita, e spesso loro si trovano dentro al percorso della performance, devono essere performativi. Ecco, la musica, il racconto di Carlo ce l'ha detto bene, invece non fa entrare nel performativo ma nell'espressivo, cioè permette non di dover avere un obiettivo e una cosa molto specifica da fare, bensì di poter comunicare il tuo mondo interno attraverso un codice che è quello dell'arte e certamente quello dell'emozione. E questo passaggio dal performare all'esprimere penso che sia bellissimo e anche, oltre che terapeutico, anche molto preventivo in età evolutiva. Roberto, a proposito di ragazzi e di giovani talenti, talenti musicali, compositori, interpreti, pianisti e musicisti, tu hai proprio fondato un'accademia che è l'Educational Music Academy, dove lì guidi, li supporti, anche questo è un lavoro bello di educazione nei confronti dei giovani, anche un'opportunità per inserirli poi nel mondo del lavoro. Dicevo, ho ricevuto tantissime soddisfazioni da questo lavoro, questo è il quarto anno e arrivano dei ragazzi straordinari, vengono un po' da tutta Italia, sono quasi tutti pianisti, compositori. La cosa bella è che ci sono degli autodidatti e ci sono degli insegnanti già di conservatorio, sì. Quindi non è gerarchica in nessun modo. E poi tra loro c'è uno scambio veramente notevole. Quello che facciamo, perché mi è venuto diciamo in mente questo quando si parlava molto anni fa delle opportunità per i giovani, no? Io penso che un'opportunità è quella di aiutare loro a fare da soli, a realizzare i loro progetti, le loro idee, i loro desideri, no? È quello che cerchiamo di fare, cioè arrivano con i loro pezzi e siamo un po' una via di mezzo, una fabbrica, scherzando, tra dei maestri di composizione o di pianoforte e dei produttori artistici, perché dei produttori discografici, perché poi li aiutiamo, facciamo un ponte, oggi si parla molto di muri o di ponti, creiamo e voi fate, un ponte. Mi piacciono più i ponti dei muri, direi. Non so voi, ma creiamo un ponte tra il mondo della scuola, tra il mondo comunque progettuale del desiderio è proprio quello di esporsi, no? Che anche quello è molto importante, e dentro la scuola ci sono anche attività di concentrazione, rilassamento, respirazione, il modo di interpretare, oltre che la forma della musica, la registrazione, c'è proprio questo, cerchiamo di prendere l'essere nella sua totalità. Ai genitori di quei ragazzi che dicono voglio fare il musicista, voglio vivere della mia passione, i genitori possono essere un po' anche preoccupati perché in questo momento di crisi... La musica ha anche delle difficoltà da un punto di vista proprio economico Tu da musicista ma anche da genitore cosa suggeriresti? Ma io sono sempre stato per seguire quelli che sono i loro desideri, anche perché ho visto a volte proprio nella mia infanzia, quasi, quando per esempio ricordo un carissimo amico che era compagno di scuola delle medie, che faceva dei quadri, ma già allora, quindi avrà avuto 11-12 anni, sembrava veramente degli affreschi straordinari, me ne aveva fatto uno nella mia stanza con dei cavalli, cioè quindi a grandezza, e poi i genitori l'hanno convinto a cambiare mestiere e penso che sia stato veramente un peccato. Ecco, stiamo attenti a non cancellare o sopprimere delle doti, delle qualità straordinarie dei nostri figli. Il brano di cui mi chiedete ancora adesso, adesso poi magari Carmelo ce lo fa risentire, con cui abbiamo aperto il nostro spazio insieme a Roberto Cacciapaglia e ad Alberto Pellai, si chiama Dolcemente e fa parte di Atlas, il tuo ultimo progetto musicale, che è un progetto in cui tu hai raccolto i brani più significativi della tua carriera, due brani inediti anche, e l'omaggio ad un grande, a David Bowie. Come sottotitolo hai scelto La riscoperta del mondo, ma è un suggerimento per chi ti ascolta oppure è la tua condizione attuale? La mia condizione attuale è anche, penso, un suggerimento. Entrambe le cose. Sì, perché penso che sia interessante ritornare sui passi, come è successo a me con questo album, con occhi nuovi, come diceva Proust. Non tanto andare in giro a cercare nuove terre, ma avere occhi nuovi, no? E quindi anche un ascolto nuovo. Una perfetta chiusa prima dei mercati e poi noi ritorniamo insieme a Roberto Cacciapaglia, ad Alberto Pellai, 800 24 00 24, anche con formule matematiche e consigli, chissà mai, a suon di musica per snellire il nostro girovita. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Siamo tornati in compagnia del maestro Roberto Cacciapaglia, che è qua in studio con me, e in linea abbiamo Alberto Pellai. Stiamo commentando un po' il ruolo della musica nella nostra vita, con anche un occhio alle neuroscienze, Alberto, che hanno studiato i legami molto stretti. Ma sì, le neuroscienze in realtà ci raccontano come funziona il nostro cervello ed effettivamente ci possono anche spiegare perché la musica diventa un ingrediente così fondamentale non solo della nostra vita, ma anche del nostro funzionamento mentale. E anche di quello dei nostri bambini. È vero che così rispondiamo ad un ascoltatore che ha formulato proprio questa domanda per te, che educare i bambini alla musica fin dalla più tenera età aiuta anche uno sviluppo più armonico del loro cervello e apprendono più facilmente. Devo riassumere un po' questo messaggio lungo, spero di non avere perso i concetti chiave, ma Alberto... Sì. Da molto tempo in realtà c'è addirittura proprio un programma di stimolazione della crescita mentale dei bambini attraverso la musica, c'è tutto il cosiddetto progetto, programma Mozart, per cui sono certo. Usciti anche CD che sono stati utilizzati, riprendendo anche una cosa che avete detto molto bene voi nella prima parte della trasmissione. Siamo stati bravi allora, dai Roberto, me l'ha suggerita Roberto. Quando noi nasciamo abbiamo molto attivo il cervello emotivo, quello che sente, e davvero quello che invece pensa si costruirà all'interno della relazione con gli adulti. Ecco perché la musica, come dicevi tu, è così importante nella prima fase della nostra vita ed è così capace di entrare nel mondo delle emozioni del bambino, che a volte necessitano di essere regolate, ed è una cosa che implicitamente fanno per esempio tutte le mamme quando vogliono calmare o addormentare un bambino che piange. Lo cullano riproducendo il movimento del liquido amniotico, ma poi cantano con la loro voce una dolce ninna nanna che ha la capacità proprio di calmare le emozioni impazzite che si sono attivate nel cervello del bambino. I suoni dolci. Allora, abbiamo all'800240024 chiesto ai nostri ascoltatori chi è il primo che ha dimostrato il legame tra musica e matematica. In linea con noi abbiamo Dino dalla provincia di Padova. Dino, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Grazie, lei ci dà la risposta giusta, perché io qua ho il mio CD, doppio CD dell'ultimo, le chiamano sempre gli ultimi sforzi, l'ultimo lavoro, perché è l'ultimo del maestro Cacciapaglia, che sta volando a lei, Dino. Eh sì, mi sa che me lo prendo oggi. Sì. Pitagora. Bravo. Complimenti. Bravo. Bravissimo. Allora, il CD, io spero che il maestro Cacciapaglia me ne riporti uno, ma certo. Comunque va sicuramente da Dino. Doppio CD, tratto. Le metto anche un foglietto con un fiorellino mio e di Debora, lo vuole? Oltre che la firma dell'autografo di quella Cacciapaglia. È la cosa più preziosa. Dai, è la più preziosa. I fiorellini, adoro gli uomini bugiardi. Grazie e complimenti, Dino. Allora, Roberto, grazie. Uno dei tuoi tratti distintivi è la sperimentazione, anche sul piano tecnologico, perché proprio tu usi una tecnologia molto sofisticata per portare alla luce, parlavamo di Pitagora, quelli che Pitagora chiamava i suoni armonici, che sono dei suoni invisibili. Che suoni sono? Io non ho capito. Pitagora appunto li definiva come essenza dell'universo. Sono il corpo del suono, però di cui noi non percepiamo proprio la natura, l'essenza. Questi armonici È un po' come quando buttiamo un sasso in un mare calmo, in uno stagno. Vediamo queste onde circolari che si propagano, poi le perdiamo, ma in realtà vanno avanti all'infinito. Diciamo che col suono succede un po' la stessa cosa. Allora parlavi di software, sto utilizzando e stiamo utilizzando anche dal vivo nei concerti questi software modernissimi, sofisticati, che hanno la proprietà di portare alla luce suoni inudibili. Quindi io dal vivo spesso dico, avete l'impressione forse di sentire suoni elettronici, e alcuni lo sono perché utilizziamo l'elettronica insieme all'acustica, ma la cosa più importante invece sono questi software che hanno la proprietà Pitagora di portare appunto questi filamenti alla luce, un po' come se dal pianoforte uscissero dei raggi e che si propagano nello spazio. Quindi la propagazione del suono diventa concreta, reale, tangibile. A me piace chiamarli suoni biologici perché questa tecnologia lavora sull'essenza, sulla natura del suono. Ed è un caso in cui natura e tecnologia vanno insieme, che mi sembra un'indicazione molto interessante anche per il futuro, non solo della musica, queste due forze con cui noi ci confrontiamo adesso, cioè la consapevolezza di rimanere legati alla natura, non possiamo staccarci dalle nostre radici, alla nostra natura, e insieme questo stupore. Mi piace questa vibrazione, quindi sentendoti siamo tutti pervasi da queste vibrazioni. Che bello. Il prossimo appuntamento è vicino, dopo la Russia stai un po' in Italia però. Un po' più vicino e un po' più al caldo, a Savona il 24, cioè dopodomani, il 24 febbraio, Teatro Chia Brera, faremo questi esperimenti. Proprio di suoni biologici. Biologici. Di cui parlava già Pitagora. A proposito di matematica, vedo che Laura Vanossi è rimasta basita, però è proprio così. A proposito di matematica, un altro domandone. Allora, abbiamo detto che è venuto fuori che l'indice di massa corporea, che è quel valorino che ci dice se siamo in forma o fuori forma, si eredita dai genitori, e tra poco nel corso della puntata vi daremo anche dei consigli se il vostro numero è un po' fuori forma, fuori norma, di farlo ritornare nella fascia del normopeso. Bene, allora un altro CD, ma un'altra formula questa volta, la formula per calcolare l'indice di massa corporea all'800 24 00 24. Intanto abbiamo Marianna da Padova e Matteo dalla provincia di Novara. Buongiorno Marianna. Oh, buongiorno Nicoletta, grazie per avermi dato la possibilità di... Ma grazie a lei che ci segue e ci ascolta, io sono sempre molto riconoscente ai nostri ascoltatori, grazie. Allora Marianna. Io avrei voluto dire mille cose sulla musica, perché la musica è una cosa che io ho scoperto, la musicoterapia, quando non se ne parlava, nel senso, così non avevo la percezione consapevole, però sapevo che certe musiche mi calmavano, certe altre mi mettevano più di buon umore, mi facevano ballare da sola, perché non ho mai ballato, non ho mai ballato in pubblico, no, però comunque insomma, quindi la musica, diciamo, mi accompagna tutto il giorno, di tutti i giorni dell'anno. E poi volevo dire una cosa, se può essere interessante, che quando ero moltissimi anni fa, perché ho 66 anni, in quinta elementare, il direttore, che era un direttore molto illuminato per quei tempi, bisogna dire, e aveva fatto fare un corso di ginnastica all'interno della, cioè una scuola antica, con dei corridoi enormi, facevamo là, non c'era la palestra, e una maestra, una musicista credo, non so, da fuori veniva con e ci ha fatto questo corso per un paio di mesi, sì, con musica e danza. Ecco, no, allora aspetti, io che non ho mai perché Matteo se no ci si scappa. Marianna, quindi in un attimo, che non, io che non ho mai amato la ginnastica, perché sono fondamentalmente pigra, un po' un legno, la musica scioglie. Marianna, continui a ballare e ad ascoltarci. Andiamo a Matteo dalla provincia di Novara. Matteo, sa che noi donne quando iniziamo a chiacchierare non finiamo più, ma lei è fedele ed è rimasto con noi. Grazie Matteo. Prego. Allora, sono un insegnante di percussioni, di un liceo musicale. speravo di prendermi il CD, maledizione, sono stato preceduto. Insomma, con la risposta su Pitagora e i suoi studi sul monocordo. Pazienza. Vabbè, glielo regalo io, Matteo, uno dei miei. Grazie mille. Va bene? Ecco, sui suoni armonici, facendo il percussionista classico e anche di musica contemporanea, insomma, io e il maestro, insomma, abbiamo molto in comune sullo studio dei suoni armonici. Tante volte mi viene richiesto da compositori contemporanei, quando eseguo brani, di fare cose un po' particolari, tipo tirare fuori gli armonici dai timpani, dal vibrafono. Lei va sul tecnico, Matteo, è una richiesta di, magari vi scrive, venendo al sodo, ma molto più diretto e semplice per noi, così possiamo condividere il suo pensiero. Allora, il mio pensiero in particolare, facciamo una chiusa generale, io consiglio assolutamente di approcciarci allo studio della musica, innanzitutto perché è una disciplina disciplinante. Sì. Forma assolutamente i ragazzi e forma la persona. Ed è un'attività per il lato cuore, diciamo, fa bene. In particolare il mio strumento, le strumenti di percussione, si rimane in forma. Vedi? Si muove parecchio ed è una cosa che non ci abbandona mai. Si può studiare a tutte le età e continuare a studiare per tutta la vita. Matteo, allora, addirittura il CD proprio del maestro regalato direttamente da lui. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo con una domanda per Alberto. Ma se la musica che mi piace mi fa bene, quella che non mi piace mi fa male? Questa è la domanda di un nostro ascoltatore. Alberto, preparati, subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme, ce la stiamo un po' godendo, ascoltando, la musica ci dà piacere, attiva le aree del piacere, per cui bello, floating. Poi con te, devo dire, è straordinario. Dicevo prima a Nicoletta che lei lavora con tema e variazione, quindi io trovo straordinario, perché parte su un tema di base e poi vari, e io ti seguo in questa spirale in fantastica, questa follia, molto bello, grazie, no, grazie, sono commossa. Allora, il maestro compone con il La Verdiano? Sono troppo tecnici questi addirittura, ascoltatori, l'accordatura 32 hertz, ma questa dipende, è una cosa, è una cosa molto tecnica, magari poi se vuole la persona posso spiegargli. Diciamo che ci sono certe accordature che sono più interessanti per alcune musiche con certi obiettivi e altre in un altro. È una risposta molto tecnica, quasi come un'equazione. Alberto, avevamo in sospeso la domanda del nostro ascoltatore: se la musica che mi piace mi fa stare bene, quella che non mi piace che effetti produce? Ma in realtà la musica che non mi piace, da una parte può lasciarmi indifferente, quindi io la metto in una sorta di stand by e non me ne accorgo neanche. In parte mi può infastidire, cioè può proprio richiamare dentro di me zone della mia vita dove magari ho sofferto, e quindi lì mi genera una situazione di fatica. Alcuni tipi di musica per alcune persone possono addirittura essere molto violente, cioè ci sono degli stili musicali come la rock che effettivamente, se uno non ha quella capacità di sintonizzarsi con quel genere di musica, entra dentro e ha un effetto proprio di accelerazione del battito cardiaco, di impattare i nostri ritmi biologici modificandoli e a quel punto dandoci delle sensazioni anche fastidiose. Invece, se la musica vi piace, come ci scrive un ermanno, ascoltando la musica e soprattutto i brani di Roberto, ne trovo giovamento riguardo la sollecitazione della creatività. l'immaginazione di un futuro che vorresti, di idee da realizzare che a volte riesci a concretizzare. Pensa a me che cosa mi che fa bello. Dopo un'ora che ho qua, ti ho qua vicino in studio, mi trasformo. Quello che è interessante, perché è giusto, perché l'arte deve dare delle visioni, no? E quindi le vibrazioni, dicevamo prima, sono come delle autostrade energetiche che ci connettono, che ci permettono di comunicare. Quello che ha scritto lui, complimenti, è proprio così. Ermanno. Allora, a proposito di variazioni, noi abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di formule, di matematica, vi ho dato un'altra domandona, l'indice di massa corporea, perché lo ereditiamo, 35-40% dai nostri genitori. Abbiamo Elena da Milano, buongiorno Elena. Mentre ascoltiamo alcuni dei brani di Atlas, che è l'ultimo progetto di Roberto Calciapaglia, e parliamo anche di formule matematiche, di una formula che è molto legata alla nostra salute, l'indice di massa corporea. Elena. Allora, è data dal peso. Buongiorno, di peso, Elena. Buongiorno. Credevo di averlo, che mi avesse già sentito, vi avevo salutato, vi ringrazio per le vostre belle trasmissioni e le informazioni. E la No, era solo un buongiorno, Elena. Va bene. Grazie. Allora, la formula? La formula è il chili, cioè il peso espresso in chili diviso l'altezza al quadrato espressa in metri. Perfetto, allora. Brava. Adesso tocca al dottor Speciani fare un regalo a Elena. Dottor Speciani, buongiorno. Ma buongiorno, che bello starvi a sentire. Sì, ma anche perché forse facciamo una carambata, vero Roberto? Ah, sicuramente. Perché forse vi conoscete. Ma Oreste Speciani in qualche modo. Mio babbo. È stato il mio straordinario, guardi, sono contento di sentirla. Quindi, sono stato suo paziente, ho avuto questa fortuna. Vedi? Moltissimi anni fa. Allora, una bella carambata per il dottor Speciani, che passerà un libretto a Elena da Milano, sicuramente. Noi ne abbiamo di cosa, glielo mandiamo. Dottor Speciani, una formula matematica per dire se siamo in peso formo oppure se eccediamo un po', soprattutto come giro vita, ma soprattutto consigli per rimetterci in forma. Rapidamente direi. Certo. Una prima indicazione è che la formula stabilisce, purtroppo, questo è un po' l'unico difetto di questa formula, che un tonico muscolare, immagino il bagnino super muscoluto, che pesa molto ed è alto uguale ad un signore molto grasso, che però è alto uguale, alla fine hanno uno tutto di muscoli e l'altro tutto di grasso, però hanno lo stesso indice di massa corporea. Quindi la cosa più importante è anche andare a capire quanto è la massa grassa e qual è la massa magra di una persona. Oppure prendere il centimetro, no? E misurarsi quello, il giro vita. Anche, questo doveva dire Elena, ma noi l'abbiamo. Allora, se il nostro giro vita è un po' abbondantuccio, dottor Speciani, tantissime puntate abbiamo dedicato a questo tema, ma vogliamo fare tre flash. Dirlo oggi all'interno di una situazione in cui viene discussa la musica, quindi con la capacità che la musica ha di segnalare alle persone, di segnalare al modo di percepire. Allora, la prima colazione, voglio dirlo, l'abbiamo detto tante volte, è uno degli elementi che stimola la produzione di un ormone che si chiama GH, che è quello che costruisce il muscolo e costruisce le ossa. Se io non faccio la prima colazione, questo GH, poverino, è deficitario, funziona male, quindi uno, anziché fare muscolo e quindi tonificarsi, diventare bello tonico e produrre calore e consumare calorie, in realtà produce grasso. Quindi prima colazione, elemento cardinale. Secondo, altro segnale, che è come fosse una parte della musica che si dà all'organismo, che è il giusto quantitativo di proteine. Purtroppo in Italia siamo abituati a delle prime colazioni un po' risibili, a biscotti, croissant piuttosto che a brioche, piuttosto che a cornetti, a seconda delle regioni, come lo chiamano, e scarsamente utilizzate le proteine, che invece servono nella giusta quantità perché attivano il metabolismo. Devono essere bilanciate bene, un po' come facevano i nostri vecchi, che al mattino comunque un pezzo di formaggio, piuttosto che un po' di pesce, piuttosto che un po' di mandorle, di nocciole, insieme ai carboidrati, che ci fanno anche bene, ma devono essere bilanciati giusti. Quindi il giusto bilanciamento di proteine e carboidrati è come mettere dentro in una musica tutti gli accordi in modo positivo. Perfetto. E quindi di costruire degli elementi buoni. Terzo passaggio? Terzo passaggio è che, proprio perché c'è questa diversità, se uno non ha la possibilità di misurarsi la massa grassa e la massa magra, si misuri un po' la larghezza dei fianchi e la larghezza della vita. C'è un elemento che è molto più personalizzabile, che è proprio il rapporto tra vita e fianchi, che deve essere minore di uno. Tradotto in termini pratici è... fate in modo che la vita non sia più grande dei fianchi, perché se è perché poi è difficile trovare delle gonne o dei pantaloni, dovete andare in giro in accappatoio. E poi un'ultima e chiudo velocissimamente, c'è un elemento importante che è una nuova visione anche dell'esercizio fisico. Si possono fare degli esercizi aerobici che aiutano tantissimo a consumare calorie. Da qualche anno si è capito che ci sono anche delle tecniche di lavoro per i frettolosi, diciamo così, ma non è vero, a volte per gli sportivi, che è quello che si chiama l'esercizio intermittente, cioè di fare degli esercizi ad alta intensità. Anche questo riposo, sembra un po' ritmo di musica. È bello, infatti. Dottor Speciani, un abbraccio e grazie. Grazie, e grazie della carambata, e un saluto e ci sentiamo presto. Allora, per chiudere questa bella puntata e per così regalare, imprimere bene questo ricordo, chiudiamo con l'omaggio che tu hai dedicato a David Bowie. Beh, diciamo che David Bowie è stato un esempio di sconfinamento. La musica ti aiuta a sconfinare e dobbiamo andare fuori dai limiti, essere liberi. Questo è, secondo me, la cosa più importante. Liberiamoci. Liberiamoci, salutiamo Alberto Pellai e diamo la linea naturalmente al nostro GR, ma noi ritorniamo come sempre domani alle 10.30. Se volete scriveteci, grazie a Roberto.